stabile. Io non ho mai creduto all'amore, sei diventata la mia ossessione. Non ce la faccio più ad aspettare, vorrei soltanto riuscire ad amare come prima, come una volta, quando il cielo era limpido ed ora. No, non farmi questo no, io non lo merito, ti ho dato tutto. No, non farmi questo no, io non lo merito, ti ho dato tutto. E adesso non riesco a capire se ti odio o ti amo, ti amo, ti odio, no. E adesso non riesco a capire se ti odio o ti amo, ti amo, ti odio, ti odio e ti amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, così vicino il nostro punto, la nostra fine. Da quando non ci sei mi sento morire, ma non rimpiango i giorni passati. Dopotutto sono sempre stati i più bei giorni della mia vita, che non ritorneranno mai come prima. No, non farmi questo no, io non lo merito, tutto. No, non farmi questo no, io non lo merito, ti ho dato tutto. E adesso non riesco a capire se ti odio o ti amo, ti amo, ti odio, no. E adesso non riesco a capire se ti odio o ti amo, ti amo, ti odio, ti odio e ti amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, volevo solo stare con te, un desiderio irrealizzabile. Io non ho mai creduto all'amore, sei diventata la mia ossessione. E adesso non riesco a capire se ti odio o ti amo, ti amo, ti odio, no. E adesso non riesco a capire se ti odio o ti amo,